B. Ascolta e controlla. 1. Quando i nipoti escono da scuola, la nonna li accompagna al parco. 2. Hai visto il film d'avventura in TV? No, non l'ho visto perché sono uscito con gli amici. 3. Silvana ha comprato 1 chilo di pane, ma a pranzo ne ha mangiato pochissimo. 4. Abbiamo preso la cartella dello zio e l'abbiamo messa sul sedile della macchina. 5. Dove possiamo incontrarvi alle 8 di stasera? Potete incontrarci vicino all'edicola. 6. Quanti libri di letteratura hai letto in questi ultimi mesi? Ne ho letto 1, scritto da Pirandello. 7. Hai imparato i nomi degli studenti? Li ho imparati il primo giorno di scuola.